Il punto di Stefano Folli. È comprensibile che agli italiani la disputa sul nuovo Senato, se debba essere composto da rappresentanti eletti, ovvero scelti da regioni e comuni, sembri remota e oscura. Eppure sta diventando uno dei passaggi cruciali per capire se la stagione di Renzi avrà o no un futuro, per due ragioni. Primo, perché quella del Senato è una riforma cardine, destinata a condizionare le altre e in particolare la legge elettorale. Chi non vuole il cosiddetto Italicum non vuole nemmeno cambiare la Camera Alta nelle forme radicali vagheggiate da Renzi. Secondo, i numeri di Palazzo Madama sono troppo esigui e il malessere politico troppo esteso per pensare che tutto fili liscio secondo le intenzioni del Premier. Gli oppositori di Renzi nel PD, che non sono pochi, trovano proprio nel Senato la loro roccaforte, aiutati dagli aspetti oggettivamente poco chiari della riforma. E intorno a loro si coagulano quanti, da Forza Italia ai 5 Stelle, hanno interesse a combattere il governo. È una legge ovvia della politica e in più c'è di mezzo l'assetto istituzionale. Prepariamoci a una dura trattativa.